In un villaggio nasceva un giorno un bambino di pelle ambrata. Una gazzella lo stesso giorno vedeva anche lei la luce. I loro occhioni grandi così somigliavano a girasoli. Si sono nutriti di latte e miele nell'aria dei prati. Correva ormai più veloce del vento lei che una rondine in cielo. E stava là aspettando il suo bimbo che la seguiva nel sole. Ma un giorno il bimbo non la seguì nella sua corsa verso il sole, e un uomo bianco la vide e poi le tirò proprio dritto al cuore. Il bimbo ormai nell'alba va e non torna che a notte alta, e piange solo in silenzio lui come piangono le gazzelle.